recentemente scoperto, cari ascoltatori, di appartenere a un partito, quello, pensate un po', degli irriducibili. L'ho appreso dal Corriere della Sera di martedì ultimo scorso, che in uno scritto di prima pagina, puntualmente ripreso da un ampio servizio all'interno, introduce nel dibattito ideologico nazionale la nuova categoria dei pacifisti irriducibili. Brutta gente, eh? Gente che non crede all'effetto salvifico delle elezioni in Iraq, che le giudica una farsa ed è convinto che in quel paese non cambierà nulla. Si tratta, per lo più, come specifica l'occhiello, di cattolici e intellettuali di sinistra, con la sola eccezione citata, non è chiaro perché, del professor Alberto Asorrosa. Ed è chiaro dal contesto che il loro giudizio non è tale da poter essere condiviso dalle persone da bene. Sono irriducibili e questo dovrebbe bastare. Io cattolico non posso proprio dire di essere, giudicherei presuntuoso definirmi un intellettuale di sinistra, sul pacifista però posso concordare e sulle elezioni irachene in effetti ho una quantità di riserve. Non mi spingerei forse a definirle una farsa perché da quelle parti evidentemente c'è poco da ridere, ma che da una consultazione elettorale svoltasi sotto occupazione armata ci sia da aspettarsi ben poco, mi sembra tanto ovvio che non riesco sinceramente a capire come si faccia a sostenere in buona fede il contrario. E quanto a non cambiare niente, mi sembra che il caso di Giuliana Screna sia ampiamente dimostrativo del fatto che appunto non è cambiato niente. E dunque sono irriducibile anch'io e farete bene d'ora in poi a tenerne conto. D'altro canto a pensarci, che male c'è a essere irriducibile? L'aggettivo in sé non è particolarmente nefando, a parte certi usi specialistici, come in medicina, dove lo si riferisce a fratture, lussazioni o ernie che non possano essere rimesse in posizione normale, o in matematica, in cui lo si applica a un polinomio che non può essere decomposto nel prodotto di due polinomi di grado diverso da zero, qualsiasi cosa ciò significhi, o da una frazione che è ridotta ai minimi termini presenti in numeratore e denominatore primi fra loro. Il termine indica soltanto qualcosa che non è facile ridurre a qualcosa d'altro. E questo, se riferito a esseri umani, dovrebbe essere inteso piuttosto come un complimento. L'ostinazione è una brutta cosa, ma irriducibile non significa ostinato. La sua gamma semantica copre una quantità di connotazioni positive, dall'integrità morale alla fermezza nelle proprie opinioni. La lealtà verso i propri principi, in questo senso sono irriducibili eroi nazionali come Amatore Scesa e Francesco Ferrucci, cui si intitolano vie e piazze e le cui gesta si imparano a scuola. È vero che Silvio Ceccato parla in più passaggi della sua opera di metafore irriducibili, intendendo per tali quelle affermazioni che non è possibile ridurre in operazioni senza incappare in una contraddizione, e quindi dicendolo un po' all'ingrosso che non significano nulla. Ma l'influenza di quel pensatore sulla cultura nazionale non è stata tale da determinare a livello da pubblicistica un'accezione automaticamente negativa del termine. Per cui, tornando al nostro punto di partenza, il punto di vista di un pacifista irriducibile, senza offesa per il professor Asorrosa, dovrebbe essere apprezzato molto, ma molto di più di quello di un suo ex compagno di fede che di fronte allo spettacolo degli iracheni in fila davanti ai seggi abbia deciso, senza neanche sapere chi ha vinto, di convertirsi alla teoria della guerra giusta. Nel paese dei trasformisti e dei volta gabbana, che non è l'Iraq, chiunque sappia mantenersi saldo nei propri convincimenti merita considerazione e rispetto. Ahimè, sappiamo tutti che al Corriere non si occupano di semantica. Loro, nel fare quel titolo, non pensavano né a Silvio Ceccato, né ai polinomi, né ad Amatore Scesa. L'unico vero uso giornalistico accreditato dell'aggettivo plurale irriducibili negli ultimi anni è quello che lo vede in endiadi con il sostantivo terroristi. Sono anche costoro, persone degne di rispetto, perché hanno rinunciato per coerenza con le proprie scelte, per discutibili che fossero, ai vantaggi e alle impunità che questo nostro Stato, dalla debole fibra morale, offre in cambio di una delazione di una biura. e poi non a tutti coloro che sono stati definiti in quel modo l'epiteto calza proprio a pennello. Tuttavia, e proprio perché le loro scelte sono state di un certo tipo, non sono persone con cui sia corretto paragonare i propri avversari, come quel titolo, senza parere, indubbiamente fa. Affermazioni del tipo che chi non sta con noi è un terrorista potranno piacere ai magistrati di Brescia, ma non dovrebbero avere diritto di cittadinanza in una società che si pretende liberale, in particolare non dovrebbero essere usate implicitamente in un titolo buttato lì, senza dibattito né discussione, non si sa se come battuta di spirito o come illazione gratuita. Chi si serve di questi metodi di rispetto proprio non ne merita.